Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana. Tutta la lode appartiene ad Allah, il quale ci ha riportato alla vita facendoci svegliare dopo averci dato la morte facendoci addormentare. Wa ilayhi al-ba'thu wan-nushur. E davanti a lui ci presenteremo dopo la resurrezione. Asbahna wa asbaha al-mulku lillah. Abbiamo fatto giorno e il creato che appartiene ad Allah intorno a noi ha fatto giorno. Al-izzatu wal-uzmatu wal-kibriya'u wal-jabarut. La gloria, la sublimità, la maestà, l'onnipotenza. Was-sultanu wal-burhanu lillah. La sovranità e la prova appartengono ad Allah. Wal-ala'u wal-nu'ma'u lillah. E i benefici e le grazie appartengono ad Allah, che le dispensa a chi vuole dei suoi servi. Wallailu wan-naharu lillah. La notte e il giorno appartengono ad Allah. Wa ma sakana fihima lillahil wahidil qahhar. E tutti coloro che in essi due vivono appartengono ad Allah, l'unico, l'impositore della sua volontà.